E rieccoci di nuovo all'ascolto con TrueCast, il podcast di True Metal. Speriamo di non esservi mancati troppo, speriamo di esservi mancati in realtà, perché sennò vorrebbe dire che vi stiamo annoiando a morte e questo non lo vogliamo di sicuro. Durante la pausa natalizia abbiamo dato vita a diverse iniziative su True Metal, sono quelle che avete visto in homepage con il concorso a cui avete partecipato in molti o sul forum con il sondaggio per generi sul miglior disco dell'anno. Sono piaciute entrambe le cose, ci avete dato un grande feedback, a breve daremo i risultati di entrambi. I sondaggi hanno già avuto il loro risultato, l'abbiamo già visto con tanto di commento del nostro direttore Mauro Gelsomini. Quello che daremo a breve invece è il risultato del concorso vero e proprio a cui avete partecipato in homepage. Ora, andiamo a parlare direttamente con la musica. Quello che stiamo per sentire è il pezzo migliore per iniziare il nuovo anno. È infatti Doom Metal, sono i Blood Ceremony dal Canada con Return to Forever. Chamber they pray to the dawn. Erano i Bloss e Remoni dal Canada, dicevamo, sono molto settantiani, molto sabbatiani. Angelo qualche giorno fa gli ha dato un bello 80. La recensione descrive benissimo il disco, quindi io vi consiglio, oltre ad aver ascoltato la loro musica, sono sicuro vi sia piaciuta la loro canzone, di andare a guardare e a leggere esattamente che cosa fa il gruppo e come lo fa, e di andare a guardare anche la copertina, che rende bene l'atmosfera del disco. Sembra presa direttamente da una copertina di Tex degli anni d'oro con Mephisto in azione. Questa la capiscono solo i vecchietti, ma è per i vecchietti che è dedicato, e ai vecchietti che è dedicato questo album. Ora andiamo a parlare di qualcosa di decisamente diverso, decisamente folle per una volta. Non si tratta di metal convenzionale, anzi qualcuno ha obiettato che potrebbe non considerarsi più metal. Non è vero, a nostro parere si tratta di metal in pieno, ma è sperimentalissimo. Incorpora influenze di tutti i tipi, tra cui molte jazz per esempio. Sono gli Ekphasia, di cui la recensione è stata fatta da Nicola Furlan su True Metal. Il voto è 91, voi sapete che non diamo voti a caso, 91 non vuol dire ottimo disco, ma lo diamo a tutti questo voto, anzi, un 91 lo diamo se è veramente un capolavoro, se è un disco che rimarrà nel tempo. Andate a sentire il pezzo che sta per arrivare, per molti sarà troppo sperimentale, troppo avant-garde, a molti altri piacerà e si innamoreranno di un gruppo che io per primo non conoscevo fino a qualche giorno fa. Buon divertimento! sperimentazione a tutto spiano per le Akfaizie, quindi qualcosa che non siamo sicuramente abituati a sentire in campo metal, qualcosa di oltre, di innovativo, e di cui sentiremo sicuramente parlare ancora molto a breve. Scommetto personalmente entro un paio d'anni un bel contrattone con qualche label grossa di grido. Ora passiamo direttamente a qualcosa di molto più tradizionale, qualcosa che bilancia un po' l'innovazione e la sperimentazione degli Akfaizie. Il prossimo gruppo si chiama Enforcer, sono stati recensiti a fine novembre già da Federico sul nostro sito. È un gruppo che incarna l'anima del Defender, come molti altri. Andate a sentire il pezzo che si intitola Into the Night. Heavy classico degli Enforcer, che sicuramente vi ha riportato alla mente i primi Iron Maiden, penso, e tutti i mostri sacri del genere, passiamo direttamente a qualcosa di più moderno, sicuramente di un genere che ormai viene comunemente chiamato deathcore. Si tratta infatti di una commistione, è chiaro, di death metal e hardcore, che ha avuto particolare fortuna con gruppi. Si è partiti già qualche anno fa con i Dying Fetus, siamo arrivati poi all'apice, forse anche a uno sviluppo del genere, con gente come Despised Icon e i Job for a Cowboy, che hanno fatto un gran disco che vi consiglio di andare a riscoprire. Beh, insomma, quello di cui stiamo andando a parlare invece è un gruppo italiano. Sono infatti gli ex Brobeat, che molti di voi, spero, conosceranno come realtà underground già affermata da qualche anno in campo hardcore e della verità più spinti verso il new metal. Ora invece fanno deathcore puro e semplice, si chiamano The Modern Age Slavery, e sono sotto contratto con Napalm Records, che ha deciso di dare loro l'opportunità di creare qualcosa di veramente grande per una volta sulla scena italiana. Sentiamo questo pezzo, poi ne parliamo quando abbiamo finito di ascoltarlo. I'm not. Non mi dilungo ulteriormente sui The Modern Age Slavery, di cui ho già parlato in abbondanza prima di questo pezzo che abbiamo appena sentito, ma vi dico il titolo del pezzo. Il titolo è infatti Descent to Oblivion, è la nona canzone dell'album che si intitola Damned to Blindness. Ascoltatelo, è un genere appunto molto simile a quello che abbiamo sentito coi Job for a Cowboy, Joshua Parrish e Whitechapel. E questo ce lo dice Davide Iori, che è notoriamente un esperto del genere. Ora passiamo alla melodia di nuovo. Stiamo tornando a lidi molto più classici. Quelli che stiamo per sentire sono i China Blue. Ecco quindi il nostro pezzo hard rock, li abbiamo appena sentiti, sono i China Blue. Fabio Vellata, che ne ha fatto la recensione su True Metal, è quasi euforico nel chiudere appunto il loro commento. Dice, ed eccolo qui, l'ennesimo prodotto degno di nota di un'annata che si farà ricordare e rimarrà cara agli appassionati. Twilight of Destiny, questo è il titolo del disco infatti, dice Fabio, ha un merito aggiuntivo, quello di porsi come motivo di sollievo e gaudio per i tanti fan degli ormai irriconoscibili TNT. La voce è sempre quella, lo stile è nemmeno troppo distante, questa volta però le canzoni sono di tutt'altra qualità. Insomma, vuole la scelta, direi che vale la pena andare a provare ad ascoltare questo disco. Ora però facciamo un altro bel balzo, torniamo infatti all'estremo, con un pezzo black metal, sono i belgi Nathan, recensiti dal nostro Alex Calvi su True Metal. Il voto è 70, che comunque è un ottimo voto per i nostri standard. Il pezzo che stiamo per sentire è la title track del loro nuovo album, ovviamente scritto in fiammingo, il titolo è Hetzit van de Dood e speriamo che non ci siano belgi in ascolto. A tra poco. Ciao a tutti, sono Roberto Gallerani della redazione Power. Magari alcuni di voi mi conoscono anche come Van Helsing, perché gironzalo soprattutto nel forum. Dunque, sono qui perché vi vorrei proporre un brano che, per chiarire subito, si sposta su sonorità heavy metal o hard rock. Il gruppo in questione è un gruppo italiano della zona di Milano. Pensate, loro si sono formati nel 1996 e hanno iniziato a suonare e a proporre brani che si rifanno al mondo dell'hard and roll, di conseguenza a gruppi come Kiss, Motorhead, Deep Purple, giusto per citare i maestri del genere. Nel 99 se ne escono con il loro primo demo, Demo 99, e da lì sono riusciti a pubblicare un paio di album fino ad arrivare alla loro ultima fatica, il terzo per l'esattezza, che è uscito proprio sul finire del 2008 e per Kama Records il titolo è Three of a Kind. Quindi avrete già capito che sto parlando degli italiani Wine Spirit. Oh, vi dico subito che a me l'album è piaciuto tantissimo, quindi vi invito ad ascoltare con attenzione il brano. Inoltre ha veramente un'ottima qualità come prodotto. Pensate che la produzione artistica è stata affidata a Nicolò Fragile dei Gotthard, il quale compare anche in veste di ospite proprio nel brano che sentirete. Sul nostro portale è uscita anche la recensione, scritta per l'occasione da Marcello Catozzi, e ve ne vorrei leggere un piccolo estratto per descrivere meglio quello che potrete trovare sia nel brano che sentirete in seguito che in tutto l'album, ma che comunque vi invito a leggerla tutta. Allora, volendo trovare uno slogan a questo album, mi verrebbe da pensare alla rabbia e l'orgoglio, prendendo in prestito il titolo di un famoso bestseller. La rabbia traspare da ogni nota, dal ritmo serrato dei brani, ma soprattutto dalle tonalità delle parti vocali, sempre tirate a manetta. Quindi, io la smetto di parlare, vi lascio al brano dei Wine Spirit, dal titolo Like a Sinner, e noi ci risentiamo più tardi. We'll be right back. Bene, dopo aver sentito quindi il bellissimo brano Like a Sinner the Wine Spirit, continuiamo a parlare di musica spostandoci più su sonorità power. Prima di farlo però vorrei darvi un paio di informazioni riguardanti Trick or Treat. Come sapete dovevano uscire con il loro nuovo album dal titolo Teen Soldiers ad Halloween del 2008. Così non è stato e hanno dovuto posticiparlo intorno alla seconda metà di febbraio. Ho avuto modo di parlare con i Trick or Treat verso la fine di dicembre e mi hanno spiegato che la Valerie Records, la loro etichetta, è stata contattata da un'agenzia di distribuzione giapponese. Quindi i tempi per l'uscita dell'album si sono allungati, però in questo modo i Trick hanno la possibilità, la grande possibilità, di esportare la loro musica anche al di fuori dell'Europa. Quindi hanno raggiunto, secondo me, un importante traguardo. La seconda informazione invece, se vi ricordate, avevamo fatto un sondaggio sul forum dove vi chiedevamo quale canzone dei cartoni animati della nostra infanzia volevate fosse rifatta dai Trick or Treat in chiave happy metal, visto il successo forse anche inatteso della cover di Cristina D'Avena Robin Hood. Ebbene, se vi ricordate, ha vinto Kenny il Guerriero. I Trick or Treat sono stati di parola, stanno ultimando le registrazioni e a breve potremo mettere sul nostro portale l'MP3 da poter scaricare, quindi rimanete sintonizzati e attenzione alle news. Quindi, adesso parliamo di musica e parliamo degli spagnoli Dark Moor, che come sapete sono in uscita appunto in questo mese con il loro nuovo album Autumnal, sempre sotto Scarlet Records, una band secondo me in continua crescita. Con l'ultimo Tarot hanno dimostrato di saper comporre dei brani bellissimi, non banali, rimanendo comunque su uno stile power sinfonico, ma senza per questo scadere appunto nella banalità. Il brano che vi vogliamo proporre quindi è dall'ultimo album il singolo On the Hills of Dreams. Io vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao! My eyes with the dark hole. dopo la parentesi bolognese, ringraziamo Roberto Gallerani per il grande contributo che ci ha dato in questa puntata. Adesso passiamo però a un po' di violenza, perché vogliamo un po' di roba estrema. Al nostro Panzerfaust, detto anche Michele Carli, verrà probabilmente una crisi cardiaca. Quelli che stiamo per mandare in onda infatti sono i Fobia, uno dei gruppi migliori dell'anno in campo grind, sicuramente uno dei dischi più notevoli. Ci sentiamo tra circa 40 secondi. Bentornati all'ascolto del Trucast di True Metal da Paola e bentornati anche alla rubrica News e Concerti. Vi aggiornerò un po' con le novità che magari vi siete persi nell'ultimo periodo a causa delle festività natalizie. Comincio con una dichiarazione rilasciata dal chitarrista dei Morbid Angel, Trey, che ci fa sapere che in questo periodo sta ascoltando molta musica hardcore e techno. Diciamo che questa dichiarazione ha seminato un po' il panico tra i commenti sotto la notizia, soprattutto perché a quanto pare il nuovo album ne sarà un po' influenzato. I Cannibal Corpse ci fanno sapere che il nuovo DVD documentario contenuto nel prossimo disco Evisceration Plug sarà pubblicato il 3 febbraio da Metal Blade Records e ce n'è un'anteprima online su YouTube da vedere. I Dayside hanno firmato un contratto discografico con Century Media Records per la release del nuovo disco e attualmente la band è ancora in fase di registrazione e l'uscita è da attendersi per l'autunno. Continuiamo poi con i Porcupine Tree, che si stanno occupando del nuovo album e si sono isolati nelle campagne inglesi per lavorare sulle nuove tracce. A quanto pare sarà anche presente una canzone di ben 35 minuti firmata da Steven Wilson. Gli svedesi Lionshare invece ci fanno sapere che filmeranno un video per quanto riguarda la canzone Judas Must Die, tratta dal nuovo sesto album intitolato Dark Hours. Il regista scelto è Josef Tuccali, che ha già lavorato con il gruppo sui precedenti video. Vi lascio con un brano ora all'insegna del metal tricolore, sono i ferraresi Black Wings e il pezzo Firetide, tratto dal nuovo debut album Sacred Shiver, recensito dal nostro Gallerani su True Metal. Il disco si è meritato un 70 e a quanto pare questi giovanissimi sono consigliatissimi a tutti gli amanti del power melodico. Buon ascolto e ci sentiamo più tardi con la rubrica riguardante i concerti. Bentornati alla seconda parte della rubrica News e Concerti. Questa volta vi aggiorno un po' sulle prossime date che si terranno nel corso del mese di gennaio in Italia, prima di lasciarvi nuovamente alla buona musica. Cominciamo subito con i Tigers of Penteng, che verranno in Italia appunto l'11 gennaio al Motorock di Mozzate in provincia di Como e il 12 gennaio al Viper di Firenze. Il 16 e 17 ci saranno invece le Girls School, rispettivamente al Sottotetto Sound Club di Bologna e al Village di Teramo. Ci saranno poi i nostrani Dark Quarterer all'Elvis Fan Rock Pub di Livorno il 17 gennaio, mentre il 18, che è una domenica, sarà una giornata particolarmente estrema perché abbiamo i Dayside, Vader, Samael e Zonaria a Rolling Stone di Milano, mentre al Chememeo di Argelato in provincia di Bologna suoneranno Misery Index con Hate Eternal e Ion. A Rolling Stone di Milano il 21 gennaio suonano gli Edguy. Il 30 gennaio ci sarà Key Marcello con gli Steel Burner al Midian di Cremona, mentre a fine mese arriva Oliver Dawson Saxon Band con i Rain di supporto. Saranno il 30 di gennaio al Target Club di Bari, mentre il 31 gennaio al Pala Rockness di Genzano di Roma. Vi lascio ora con un altro brano. Questa volta sono una band anglo-canadese, si chiamano Georgian Skull. Ci propongono un Doom Sludge con il nuovo pezzo dal titolo Hearts Burning. Il brano è tratto dall'album di debutto Mother Armageddon Healing Apocalypse, è stato pubblicato dall'etichetta italiana Scarlet Records. Vi auguro quindi un buon ascolto e a risentirci alla prossima puntata. Ciao a tutti! It's a pains of roses. Who was the curse the people we'll be right back. È arrivato il momento di chiudere la nostra puntata di TrueCast, questa terza puntata completa. Speriamo vi sia piaciuta, ci siamo sbilanciati molto sul melodico, a dire il vero, grazie anche agli interventi di Paola e di Roberto Gallerani. Ora, quello che stiamo per sentire invece è un pezzo più trasversale, va dal melodico all'estremo con molta naturalezza. Sono i Bokor, gruppo di cui si è parlato molto in passato, non molto tempo fa, e di cui si spera si parlerà ancora, perché questo è un altro album davvero degno di nota. Leggerete la recensione su True Metal molto a breve, promesso. Questa è una canzone intitolata Oh Glory in the Void, diciamo una delle più rappresentative di un album che cambia qualcosina del loro suono, ma non più di tanto, forse spinge un po' più verso l'estremo, soprattutto nelle vocals. A voi il giudizio e ci sentiamo alla prossima puntata, la quarta, fra 2 settimane. Ciao e buon divertimento!